la versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo giovedì 25 di giugno, sono le 16.33 primi 50 secondi, qui dagli studi di Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi ringrazia, vi ricorda come sempre l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, per proporre temi, ospiti in trasmissione, e dico subito l'argomento della puntata di oggi. È una puntata dedicata innanzitutto a una parte di quelli che ci ascoltano, cioè a quelli elettori del PD che nelle ultime elezioni, o comunque negli ultimi mesi, anche se non risiedono laddove si sono tenute le elezioni comunali e regionali, hanno iniziato a grattarsi un po' la testa perché non troppo convinti dell'attuale indirizzo del Partito Democratico, del suo segretario Renzi, nonché Presidente del Consiglio. Perché è dedicato innanzitutto a loro? Naturalmente potete telefonare tutti all'800240024 e mandarci sms al 349-238-6666. Però la puntata nasce dal fatto che oltre quello che era già avvenuto nelle settimane scorse, cioè Civati che è uscito dal PD, oltre a quello che era successo nei mesi precedenti, sapete che in Liguria il risultato delle regionali per il quale ha vinto Totti di Forza Italia e il centrodestra è stato in realtà determinato dal fatto che ci fosse stata una frattura a sinistra, quindi un candidato Pastorino, espressione di Cofferati, che alle primarie aveva detto no e se n'era andato dopo le primarie dal Partito Democratico di fronte a Raffaella Paita. E insomma quello che avviene all'interno del PD è che sta prendendo corpo un certo fenomeno, cioè un fenomeno di appartenenti storici al Partito Democratico che dicono rispetto all'indirizzo attuale, alla conduzione del partito, ma alle scelte politiche di fondo, noi non ci riconosciamo. E questa puntata nasce dal fatto che anche Stefano Fassina, parlamentare, ex componente del governo, ha abbandonato mesi fa il suo posto al MEF perché non si riconosceva in questa politica, ha deciso, l'avete visto sui giornali, di uscire dal PD, lo ha annunciato in una sezione alle Capannelle, alla periferia di Roma, dicendo io sono coerente con la mia storia, per mesi all'interno del Partito Democratico ho tentato, dopo aver riconosciuto la grande vittoria di Renzi alle europee dell'anno scorso, il 40%, aver riconosciuto che era un leader, però ho tentato di riorientare le scelte politiche del mio partito più a sinistra, perché questo è il punto di fondo. Credo che a questo punto si debba riconoscere che il tentativo da dentro del partito non passa, non può riuscire, e allora di fronte a questo me ne vado per tentare di costruire con altri, con Civati, con Ferrati, guardando a quello che fa Landini con la FIOM, con la sua coalizione sociale. Landini dice sempre non è un partito, però guardando a sinistra per verificare la possibilità di un nuovo soggetto politico. Perché? Perché all'interno del Partito Democratico non mi sembra di vedere la possibilità perché queste posizioni politiche vengano davvero messe nella condizione di poter influenzare, pesare davvero sulle scelte di governo, sulle scelte di partito, sulle scelte di rappresentanza. Oggi il governo ha messo, come sapete, c'è la fiducia sulla riforma della scuola. La riforma della scuola è stato un altro banco di prova esattamente di queste posizioni critiche all'interno del PD e anche da parte della praticamente totalità del movimento sindacale, che sulla scuola ha presentato il conto al Presidente del Consiglio e al PD alle elezioni. Allora, perché dico che è rivolto a voi? Perché diteci come la pensate, intervenendo per telefono, elettori del PD, ma non solo elettori del PD, su chi con chiarezza, apertamente, prende queste posizioni e invece che cincischiare, come avviene sempre o quasi nella storia dei partiti, cioè invece di organizzare correnti e correntine per tentare poi di influire e strappare posti alle prossime elezioni, alle minoranze i posti vanno garantiti e così via, a un certo punto decide apertamente, io devo dire apprezzo la sincerità e la coerenza con cui chi, non stando in un partito che ha la più lunga tradizione storica nel nostro paese, il partito più partito che è rimasto, il PD, sia pur nelle sue evoluzioni nel tempo, però io apprezzo, devo dire la verità, pur magari non pensandola in nulla sul programma e le scelte politiche ed economiche concrete di chi lo fa, però apprezzo il fatto che a un certo punto ci sia chi con sincerità e con coerenza dice: guardate, piuttosto che star qui per mendicare un posto, faccio un'altra scelta. E allora mi interessa sapere, voi che siete in ascolto, come vedete questo fenomeno. Credete che sia una perdita di tempo, che sia un grave errore, perché bisogna restare comunque in un partito accettando di essere iperminoritari? Ma quando si perseguono proprio obiettivi molto diversi, è davvero quella la scelta che va fatta? Oppure non ha più senso anche tentare di dire: no, io credo che sia necessaria un tentativo di dare vita a una rappresentanza di un pezzo di società italiana che non si riconosce, come si vede già da questi voti, nel PD. Abbiano torto o ragione, lo vedremo. Però ecco, si è collegato con noi Stefano Fassina, e quindi io chiedo scusa agli ascoltatori per aver fatto un'introduzione un po' più lunga, però grazie Stefano di essere con noi oggi pomeriggio. Grazie a voi per l'invito. Allora, spieghi perché nel tempo hai maturato questa convinzione che piuttosto che stare e fare la minoranza nel PD, che è un pezzo fondamentale, è il pezzo fondamentale della tua vita politica per tantissimi anni, hai deciso di dare un dolore a quelli che credono che bisogna stare comunque in un partito anche se si è fortissimamente in minoranza, e hai deciso invece di andartene? Ma perché si sta in un partito quando se ne condivide l'orientamento fondamentale, non le singole scelte, perché un grande partito è evidente che deve prendere posizioni, soprattutto in una fase di governo, che possono essere anche molto diverse dalle proprie, ma l'orientamento di fondo deve essere condiviso, la funzione di rappresentanza sociale da svolgere deve essere condivisa. Sulla scuola per me è stato, diciamo, l'ultimo banco di prova dopo aver non condiviso la scelta del governo Renzi e della maggioranza sul cosiddetto Jobs Act. Sulla scuola c'è stato un enorme movimento che a mio avviso aveva, pur in tante, con tante contraddizioni, aveva l'obiettivo di migliorare la scuola pubblica. Ma secondo te Renzi ha detto più volte sotto elezioni, perché era un anno che il governo era partito sulla riforma della scuola, però sotto elezioni ha detto: non sono stato bravo a comunicarlo. Per te invece è stata una scelta quella di non ascoltare il movimento di chi protestava? Assolutamente sì, anche perché non è un problema, come ho avuto modo di dire più volte al Presidente del Consiglio, non è stato un problema di comunicazione ma di impostazione. Il guaio è che gli insegnanti si leggono pure i testi oltre a ascoltare i telegiornali. Hanno questo difetto. Si leggono i disegni di legge, si leggono gli emendamenti, si leggono i pareri che danno le commissioni parlamentari. Quindi non è un problema di comunicazione. Ora, per tornare al punto politico, di fronte a un movimento che ha portato a scioperare 618.000 persone, di fronte a un risultato elettorale che ha messo in evidenza in modo chiaro che una parte del popolo democratico, nel senso del Partito Democratico, non è andata a votare, perché il risultato in Liguria, il risultato in Toscana, il risultato in Umbria, il minimo storico in Veneto e così via, mi aspettavo da un Presidente del Consiglio di un partito che comunque ha là, piaccia o non piaccia, un pezzo della propria constituency, desse un segnale di ascolto. Invece l'analisi che abbiamo fatto in direzione dopo il voto è stata di completa rimozione del problema, e poi dopo l'annuncio di una conferenza nazionale che avrebbe riaperto il dialogo si è arrivati brutalmente, senza neanche discussione in commissione, al voto di fiducia. Quindi questo vuol dire, e chiudo, che il PD di Renzi si riposiziona in termini di cultura politica e di interessi che vuole rappresentare, e per quanto mi riguarda rimango coerente al mandato elettorale che ho ricevuto, perché poi noi siamo qua, voglio dire, non a fare quello che ci passa nella testa, abbiamo anche un mandato elettorale. Sul lavoro ritengo che abbiamo fatto l'opposto di quello che avevamo promesso in campagna elettorale, sulla scuola abbiamo fatto l'opposto di quello che abbiamo promesso in campagna elettorale, e non l'abbiamo fatto fatto perché ce l'ha chiesto Alfano, perché la coalizione che governa non è la coalizione elettorale. L'abbiamo fatto con profonda e determinata convinzione da parte del Presidente del Consiglio. Se così, allora io scendo, voglio rimanere coerente al mandato elettorale e proverò con altri che in questi mesi hanno lasciato il PD a costruire una risposta politica a quelle domande che oggi non ce l'hanno e che portano milioni di cittadini e milioni di elettori a rimanere a casa o a fare scelte diverse da quelle che avrebbero fatto se vi fosse stato un partito di sinistra in grado di interloquire. Fassina, una parte, lo vedo già dagli sms che arriva, di chi vota PD, dice però chi esce in questo modo e polemicamente, sia pure essendo stato minoranza e così via, non ottiene altro effetto che quello di rafforzare le possibilità che una destra che abbiamo scoperto a queste elezioni essere più forte, più resistente, più non battuta per sempre, ma insomma è ancora in campo, di battere il PD la prossima volta. Che si risponde a chi obietta così? Si risponde che purtroppo non è così, perché rimanere dentro e non svolgere alcuna funzione vuol dire non essere riconosciuti da quell'elettorato che poi non è che torna a votare PD perché ci sono io e non avendo potuto svolgere nessuna funzione. Quell'elettorato vuole che seppur come minoranza vi sia un riconoscimento di una qualche funzione che riusciamo a svolgere. Se io oggi voto la fiducia sul disegno di legge sulla scuola e poi mi presento alle elezioni col Partito Democratico, non aiuto il Partito Democratico perché vengo disconosciuto da tutti coloro che ritengono che sulla scuola bisognava fare delle correzioni al disegno di legge. Quindi non è vero che aiuto il PD. In Liguria, dove si è presentato Pastorino, quelli che hanno votato Pastorino non avrebbero votato la Paita neanche sotto tortura, non sarebbero andati a votare o avrebbero votato Grillo o la Lega. Quindi tu dici il tentativo che vuoi fare con altri già usciti o con altri che non erano nel PD ma si riconoscono in una posizione diversa è quella di portare a votare gente che non ha un'offerta politica più a sinistra. Oggi non ha un'offerta, ma più a sinistra, certo più a sinistra, ma anche come dire più adeguata anche alle sfide che abbiamo di fronte, perché poi diciamo oltre a quello che ci piace o ci piace meno c'è anche l'efficacia delle misure che si propongono, ma questo aprirebbe un capitolo ma io oggi faccio solo le domande perché mi interessa. Chi dice voglio dare voce, ci ho provato, sono passati mesi, ma se rimbalzo piuttosto che stare qui dicendo poi mi date un posto elettorale o un posto in Parlamento la prossima volta la minoranza, faccio un'altra scelta. Cioè è una cosa che io devo dire la verità apprezzo, poi nel merito non la penso come te, ma mi sembra una dote di coerenza. La politica italiana proprio pecca un po' di coerenza. Adesso, dopo 60 secondi, abbiamo un'informazione stradale, ci sono un po' di telefonate alle quali vorrei però che rispondessi tu, perché sono osservazioni tutte rivolte a te, Stefano Fassina. Torniamo tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, è una trasmissione con Stefano Fassina che parte dalla sua iniziativa di uscire dal PD per riflettere su chi anche prima di lui, con lui, fanno questa scelta oggi, pensando agli elettori che hanno fatto diminuire i voti del PD e interrogandosi se bisogna stare su un partito comunque in posizione di minoranza sempre oppure se bisogna dire no, allora per coerenza faccio altro. Immaginavo reazioni molto vive, allora, leggo alcuni di sms prima di passare le telefonate da sottoporre a Stefano Fassino che resta collegato con noi. Rita da Trieste dice: certo che nessun insegnante secondo me voterà più questo PD, non lo so, vedremo. C'è chi la pensa all'opposto, per esempio Paolo: Fassina fuori dal PD, un motivo in più per me almeno per votare PD. Roberto da Bergamo: Fassina, Landini, Civati, Cofferati, preferisco non dire come la penso su di loro, la penso troppo diversamente. Ok. C'è chi pensa invece: Diego, Fassina, Mineo e altri preparano il terreno del bacino di voti per una nuova formazione politica, una specie di nuovo partito comunista. Questo glielo chiederemo, se questa è la sigla che hanno in mente a Stefano Fassino. Poi altri: Massimo Paolini da Brescia dice: ma è una formazione politica che evidentemente nella loro testa serve a portare via i voti di sinistra al Movimento 5 Stelle. Anche questa è un'osservazione che giriamo a Stefano Fassino. altri che dicono veramente io ho votato a Roma alle primarie, ho votato Fassina, sono uscita dal PD, anch'io aspettavo la sua scelta, questa è Franca da Roma. Allora iniziamo con le prime telefonate. Aldo da Torino, prego Aldo. Buonasera signori. Buonasera. Sono un vecchio settantenne che hanno insegnato che quando c'è una maggioranza bisogna rispettare quello che decide la maggioranza. Sì. Fassina ha tardato un momentino a uscire dal partito dopo mesi di indebolimento alla maggioranza del suo segretario di partito, boicottandolo in tutti i modi. Adesso finalmente si decide di uscire, ma doveva farlo subito. Al momento in cui ha detto minoranza, vado via. Questa è un'opinione molto netta, addirittura, quindi lei lo rimprovera per aver aspettato troppo, se pensa, ho capito bene. Santino da Roma, prego Santino. Oh. Ciao Stefano. No, che ciao Stefano, con chi sta parlando Santino? Io volevo parlare con Stefano Fassina, volevo parlare. Ah no, Stefano Fassina la sta ascoltando, poi le risponde, poi le risponde, non si preoccupi. Io sono un coso del PD, sì. E non mi sta bene che lui esce dal partito, perché è una delle poche persone che bisogna combattere dentro. Bisogna Quindi combattere. Santino da Roma dice a Stefano Fassina, resta dentro qui e combatti. Leonardo da Bari, prego Leonardo. Ciao Stefano, Leonardo da Bari, 17 anni, PC, PDS, segretario di circolo a Bari di un quartiere di 62.000 abitanti. Sono andato via nel 2013, aia, quando alle primarie c'è stata una compravendita schifosa di voti. E da questo punto di vista i circoli hanno moltiplicato, ahimè, le tessere, ma hanno perso totalmente i contenuti. Quindi Leonardo, tu sei favorevole? Favorevolissimo, sono uscito prima, ma come si fa a stare in un partito dove non c'è condivisione di idee, di pensieri, di valori? Ottimo. Quello che c'è. Oh, no, lei aspetta, siccome ce ne sono altre, Leonardo, hai espresso il tuo pensiero agli atti, poi sentiamo cosa ne dice Stefano Fassina. Simone, dalla provincia di Cremona, prego Simone. Buongiorno, io sono un piccolo segretario di un piccolo circolo del PD, sì. Certo, i miei iscritti più vecchi si chiedono se oggi nel PD non c'è un eccesso di democrazia, dove quindi le minoranze tengono in ostaggio quella che è la maggioranza e sulla linea non si un attimino allineano. Sai che questo è l'argomento usato negli ultimi due mesi da Renzi, dice no, a un certo punto bisogna decidere. Io parlo di quelli che arrivano dal PC, quelli che hanno 70 anni, sì. Io ne ho 40, quindi loro ne hanno 70 e parlano in questi termini. Io chiedo però a Fassina di andare fino in fondo, cioè di dare le dimissioni anche da parlamentare, perché lui è stato col PD lì. Certo. Così con Ferrati dovrebbe lasciare dopo che sta al Parlamento Europeo. Il pallone che vada a casa anche dal Parlamento Europeo. Volete partire con un'altra cosa? Richiedete i voti alle persone. Quindi benissimo, e anche questa è un'opinionetta. Chi esce rimetta il mandato elettorale. Nicola da Bologna. Nicola, prego. Buongiorno, io ho 61 anni, PC, PD, e sono disgustato da Fassina. Lui sta rifacendo le cose che fece a suo tempo il PDU, e per me quelli erano fascisti, e fascisti sono Cofferati, Fassina e gli altri. Sono nazisti, perché stanno distruggendo il PD e stanno facendo il gioco di Berlusconi e della destra, e lo dice un vecchio del PD. No, perché mi vergogno di questi. Ma va bene, però insomma, fascisti e nazisti di fronte al dissenso su una linea politica. Però Nicola, lei lo dice, ha il diritto di dirlo. E sentiamo Stefano Fassina, tra tutte queste osservazioni, lo sapevo che scatenavamo i nostri ascoltatori, a chi risponde? Forse al primo che ti dice lasciare il mandato elettorale? Certamente una riflessione che ho fatto, dopodiché l'analisi che faccio è che il programma sul quale siamo stati eletti è quello a cui io faccio riferimento, perché ho detto anche al segretario del partito, facciamo una consultazione tra gli iscritti, prendo anche questo impegno con lei, facciamo una consultazione tra gli iscritti sul disegno di legge sulla scuola. Se c'è un sostegno da parte degli iscritti, io mi dimetto da parlamentare. Ritengo che invece chi sta tradendo il mandato parlamentare che abbiamo ricevuto dagli elettori è chi vota il Jobs Act, che è la proposta di Sacconi, che non è la proposta che c'era nel nostro programma, quindi la proposta del PDL. Sulla scuola, l'impianto della riforma è la proposta del disegno di legge Aprea, che era sottosegretario del governo Berlusconi, e non era la proposta del PD. Quindi io sfido queste persone che dicono di dimettersi per coerenza col mandato elettorale, di prendere i pezzi di carta, di confrontare quello che abbiamo proposto e quello che approviamo. E poi rifacciamo il discorso sul mandato elettorale. Mi interesserebbe rispondere anche alla domanda minoranza e maggioranza. Sì. Perché in un grande partito c'è sempre la maggioranza e la minoranza, non è che uno che è minoranza se ne deve andare, certo. Perché nei grandi partiti maggioranza e minoranza esistono. Qual è il punto? Il punto è che nel PD, anche per ragioni profonde statutarie, perché nella mia posizione c'è anche una critica radicale che ho maturato, che non avevo anni fa, rispetto al nostro statuto, rispetto alla democrazia plebiscitaria, che fa sì che le maggioranze che si formano al congresso si cristallizzano, perché vengono elette con le primarie in appoggio al candidato segretario, candidato premier, quindi la discussione di fatto non c'è, perché ci sono delle componenti blindate. Il punto è che la minoranza è stata la minoranza vera, cioè quella che ha tenuto posizioni diverse, perché poi ci sono stati altri che legittimamente sono partiti come minoranza e sono diventati maggioranza, votano, certo, ma è legittimo, non ho nessun problema. La minoranza che ha mantenuto posizioni diverse è stata sistematicamente delegittimata sul piano morale dal Presidente del Consiglio. Erano quelli che volevano conservare le poltrone, erano i gufi, erano i sabotatori. Senti, e a chi vi dà degli scissionisti, come tante volte a sinistra, nella storia della sinistra italiana, insomma dall'inizio del Novecento, c'è chi risponde? Ma rispondo che la scissione l'hanno già fatta gli elettori, perché si parla come se non fosse avvenuto niente, e vorrei ricordare che in Emilia Romagna ha votato il 37% in Emilia Romagna. Comunque, purtroppo io ti devo levare la 48%, quindi la scissione l'hanno già fatta. Allora, io lo sapevo che il tempo non sarebbe bastato, avevamo bisogno di un'ora. Lo faremo anche per le altre famiglie politiche, non è che, però insomma, secondo me è il caso di riflettere su chi prende posizioni così. Io la penso diversamente, ma è caso di riflettere. Grazie Stefano Fassina, continuate con Radio 24, appuntamento a domani.